placcaggio a corda con le Feru. Questa è vera, raga. Forse è vera. Facciamo solo gli Iron Maiden, raga. De cane, ma importante è divertirsi. Allora iniziamo, raga, questa è Anti Madonna League. Figura, bugiarda, non fa una maschera dell'egemonia. conosciamo. La pura arcana, precisare un sincretismo fatto oggi. Figura bugiata, basta la maschera dell'egemonia. Oh ragazzi, siete tantissimi, grazie per essere venuti qui stasera, è un'occasione molto importante. Questo pezzo è dedicato a voi che avete mosso il culo, cazzo, siamo tutti qua stasera. Il prossimo pezzo si chiama Germe. Totale coerenza, ancora sfacelo, è l'ennesima serata, urla sfaccia nel cielo, un drappo infrange l'aria. Oh, yeah, oh, oh, yeah, non capi, affronti. Oh, yeah, oh, oh, yeah, brutale naufragio, soffrirai, agonizzerai, con i tuoi guai, ma qui osteggerai, combatterai, aggredirai con noi. Un istinto rabbioso nella cacca ti fai strada, privo del cambio della società malata. Cadere al suolo, di germe del progresso, vigore dei secoli, emblema dell'ansia. Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, non capi, affronti. Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, odiati a fieri, soffrirai, agonizzerai, con i tuoi guai, ma qui osteggerai, combatterai, aggredirai con noi. Soffrirai, agonizzerai con i tuoi guai, ma qui osteggerai, combatterai, aggredirai con noi, con noi, con noi, con noi. Allora ragazzi, il prossimo è il nostro pezzo naturalistico, quindi come non dedicarlo questa sera alla battaglia No Tav, ai ragazzi che stanno in carcere. Ricordiamoci sempre, la Tav non è altro che un progetto inserito nel più ampio corridoio 5 che permetterà poi alla fine di congiungere ad alta velocità Lisbona a Kiev. E diciamo che con l'ultima crisi in Ucraina, di pensarci un attimo a questa cosa, oltre che alla nostra problematica regionalistica, diciamo così. Quindi il prossimo pezzo è per i ragazzi e si chiama Kernunnos. Sulla rocca spicca il trono di Kernunnos. nos cani ramificate cervo cannunas la foresta a piedi tuoi il sole in quanto fra di noi oggi trascendenza dottrina e violenza. Oppositori ingoiati dalle speruche, da sé la sua tela dall'oltre tomba il Kernunnos. Cani ramificate cervo Kernunna, la foresta a piedi tuoi mi sta impatto fra di noi quanto trascendenza, dottrina e violenza! Bene, adesso andiamo un po' indietro nel tempo. Queste sono del nostro disco, anche se poi in realtà io e Chris consideriamo il primo disco Liar, che era esatto, bellissimo, il nostro no? Demo. Cioè un disco registrato con 100 euro, grande coerenza, lanciata ai concerti, peccato. Poi abbiamo rovinato tutto con sto disco del cazzo, però c'è stato un buon periodo, insomma. Torneremo indietro. La prossima, ragazzi, è Street Fight. Bravi, bravi. Ma adesso facciamo gli Iron Maiden in altro modo. Iron Maiden è una certa, escono sé. La notte ti chiama, odore di scontro. Nel buio ti sguardi di tensione e rabbia. A ogni violenza e passi notturni, rinnovi la sfida difendendo la tua zona. Vai combattere ancora, nessuna pensa mai. Street Fight, attitudine da scontro urbano. Street Fight, sopravvivere al spirito vero. Street Fight, la violenza nei quartieri. Sei fai della mia città. E ogni giorno la nostra vita difendiamo da certi pugni. C'è barriera, ci separa da destino di eterno conflitto. Scatti di rascati di orgoglio, dignità. Oi, oi, oi, ancora a fuoco la tua città. Ehi, a parte, ancora nessuna pensa mai. Attitudine da scatto urbano. Sei fai sopravvive il spirito vero. Sei fai la violenza nei quartieri. Sei fai nella mia città. Tra poco rinforcheremo la strada verso la nostra capitale, nella nostra provincia. Il prossimo pezzo è Colleferro! Il richiamo del passato, Colleferro! In questa giungla sei cresciuto, Colleferro! È quello che ti batti dentro, Colleferro! È la bandiera del prato bianco, Colleferro! Questo è il mio paese, Colleferro! Grigio, lupi di odio, Colleferro! E fatti che ti chiudono di sogni, Colleferro! Ciò che ti resta cantare. Ma rimane la leggenda, Colleferro! 50 anni di agonismo, Colleferro! La fanno male, ci appartiene, Colleferro! Una tradizione che non muore, e non farò ad umiliare il debito? Quale farò è stato lo serio? Il prossimo pezzo è Leggenda, che qua tocca a muovese. Dedicata a Dario, sì. Te la riconosci? Vediamo chi la riconosce. Non diciamo neanche che pezzo è. That I was completely wasting, I don't work it down. All inside is so frustrating as I drift from town to town. Nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. But time for the golden future, I can't even start. I bet every promise broken, there's an anger in my heart. But it can, you don't have a clue. If you need, you find yourself. Then the sentence out. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, back in the low, back in the low, back in the low, back in the low. All'ultimo pezzo, chi sarà, cosa sarà mai a sorpresa, ragazzi. Questa è dedicata al nostro grande amico Tonino Ciotti, che sta all'ospedale a lottare per la sua gamba, che senza di lui manco avremmo mai suonato. Blocco, porco Dio. Oh! strada, l'ultimo colpo avanti, impero, rivelo, il grande inganno. Figlio del cinefattoria, te, file impostore, carogna e fame. Nego, tutti i diritti nego, tutti i voleri nego, la vostra vita. Confuso le vostre nazioni, solo battaglia voi, il vostro sveno. E dopo porco Dio, vi aspano le strade, qualche chiesa cercate. Ringraziamo tutti gli altri gruppi che sono stati qui con noi stasera. Kate Mosh, Night e dopo di noi Obofobic. Ciao a tutti dei Placcaggio Hardcore con le Ferro. Un cazzo! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio!